Noi ringraziamo Cruciani e Parenzo per lo straordinario zelo con il quale sono riusciti per molti anni ad animare una trasmissione che fa ormai parte stabile della storia della radiofonia in Italia. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi perché non sanno più cos'è l'amore, il vero amore è sempre unito dal cielo. Cari amici, una nuova coppia della politica europea, una nuova coppia della politica internazionale, quella formata da Beppe Grillo e il leader nazionalista britannico Nigel Farage, o come diavolo si pronuncia lo stesso, avete capito benissimo. Come si dice Nigel? Nigel Farage. Oh, lo stesso Farage che una volta disse: le donne valgono meno, è giusto guadagnino meno, vanno in maternità. Grillo dice: sono solo sondaggi, sondiamo. Ci dica se si farà questa coalizione degli europei. Adesso sono solo sondaggi, sondiamo. Ciao. Nemmeno un minuto. Farage con Parenzo. Spero dopo le elezioni di pranzare con Grillo. Sei forte per questo. Grillo è il suo punto di riferimento in Italia. I think he's going to win a lot of seats in the European Parliament, so I hope after the election I can sit down with Mr. Grillo, have a glass of wine and talk about things. Molto chiaro, no? Capiscono, no, dice, tutti. Spero di bere un bicchiere di vino con Grillo, perché devi sapere che il signor Farage è un grande bevitore. Sì, qualcuno dice anche un mezzo ubriacone, eh? Qualcuno dice anche un mezzo ubriacone. Qualcuno dice, qualcuno sostiene. Puoi farmi una gentilezza di salutare gli amici tassisti all'ascolto, perché ero poco sempre. Che sono, te ne passo uno perché sono. No, dai, non mi fare, siamo nell'introduzione della puntata, non mi spezzare il filo. Da Udine 23. Ciao. Oh, Udine 23, grandissimo. Dimmi che ne pensi della signora di Uber, subito. Una criminale, dimmelo. Una criminale. La signora di Uber è una criminale. Lo dice Udine, la responsabilità è tua, eh. La responsabilità è quella. Tutta mia. Io mi prendo tutte le responsabilità. Come sei? Udine 32? Udine 23. Udine, vabbè, scusa, ho cambiato i numeri. Udine 23, sostiene due punti. Udine 23, la signora di Uber è una criminale. L'ha detto lui. È una criminale, nel senso che è incazzata nera, è arrabbiato. Vabbè, l'ha detto, l'ha detto lui. Oh, Farage quando fu alla Zanzara disse: licenziate Napolitano. Tanto per farvi capire il personaggio, ma da questo punto di vista mi sembra uguale a Grillo. My question is, you've got Mr. Napolitano. He is your president. Yeah. Should be defending the Italian constitution. E invece dovrebbe difendere. What's he doing? So he should be fired, shouldn't he? He's failed. He's failed Italy miserably. He's our president. He's a bad president. No, perché un cattivo presidente. He's allowed your elected government to be replaced by a bunch of German-sponsored bureaucrats. He's got to go. Un giorno di me. Appoggia governi non eletti dal popolo. Farage contro Napolitano. Nemmeno un minuto. Oh, ma divertiamoci un po' con Vittorione Sgarbi, vai, ieri alla gabbia. Vittorione Sgarbi, Forza Italia partito di una salma. Così tu. Forza Italia è un partito di una salma, cioè c'è un come dire, un catafalco a cui entra la sera con Dudu verso le 23 Berlusconi, poi esce e alla mattina trova il fratello di Dudu che è Totti, e tra un cane e l'altro, ma non so, ma hanno proposto una cosa? Io non lo so. Al Alfano è una merda secca. Sempre Sgarbi. Non è malesti moschito. Vuoi contico? Cioè, Alfano, a parte che è proprio è una merda secca. Vabbè, dai, secca. No, no, ti prego, dai, no. No, no, Alfano. No, dai, no. Vabbè, vabbè, questa era la mia opinione. Questo altri 50.000 euro. E poi su Grillo, sempre Vittorione. Se avessi voluto dare un nome al mio non voto, trovavo Grillo che mi dava questa cosa. Cioè, io non sto dicendo che non è il 20%, ma non è omogeneo. Non hanno niente in comune. Uno è per l'euro, uno è contro l'euro, uno è per la figa, uno è per l'uccello, uno per il culo, uno è per la tromba, uno è per la... Cioè, non ne trovi uno. Appena poi diventano qualcosa, lui li caccia. Diventi sindaco, arriva, via di qua. Quindi, se... Oh, la questione prostituzione. Questa mattina Berlusconi doveva andare a firmare il referendum, l'aveva promesso a Salvini, invece ci ha mandato Toti e Brunetta. In realtà non ma si può capi... firmarli il referendum? Ma sì, ma può firmare, non so, con una scusa, non l'hanno mandato a fare la conferenza stampa, sono andati Toti. No, ma se non può votare. Ma sì, può che può firmare il referendum. Ma sì, che può firmarli, che c'entra? Ah, vabbè, vabbè. Certo che può firmare il referendum, può firmare per il referendum, certo, non c'è dubbio. Eh no, perché se uno perde i diritti politici. Ma che c'entra? Brunetta, sottoscriviamo due referendum. I referendum sono sei e questa nostra decisione è sottoscriverne almeno due, dopodiché ovviamente la libertà, noi siamo un partito libertario e liberale, libertario, di sottoscriverne anche altri. Fermarsi. Dal punto di vista ufficiale noi ne sottoscriviamo due. Ovviamente non si capisce nulla come al solito. Cioè, Forza Italia non è riuscita a essere chiara nemmeno su questo. Abbiamo già un ospite in collegamento da un posto speciale, fra poco ve lo presento. Intanto Pittella, vicepresidente uscente del Parlamento Europeo, Partito Democratico, rieletto con una valanga di voti, dice di essere migliorato in inglese. Sentite, sapete che l'hanno preso in giro tutti per quel video che è circolato sul suo inglese un po' maccheronico, video di 2 anni fa. Lui dice: sono passati 2 anni, sono migliorato. Sentite. Le rimproverano tantissimo, specie sulla rete, il suo inglese. Ma non è vero. Lei ha detto che ha studiato tutte le mattine. It is not true. Chiariamo una volta per tutte, perché questa storia è veramente indegna, una speculazione indegna. A parte il fatto che ci sono stati presidenti di Parlamento, di commissioni, autorità che non sapevano l'inglese, perché non è un obbligo conoscere l'inglese. Video was 2 years ago, and in this time I studied and I am studying. I improve my English definitively. Siamo qui in diretta da Copenaghen con Salvo Mandarà, buonasera. Ciao Giuseppe, buonasera, come stai? Ciao Salvo, attivista Movimento 5 Stelle. Parenzo è andato a Copenaghen perché c'è No, non sono un attivista Movimento 5 Stelle, sono un reporter freelance. Sì, reporter freelance, nonché attivista Movimento 5 Stelle, sei pure attivista o no? Nel passato, sì, lo sono stato, adesso sono un reporter indipendente. Vabbè, ma sei, come dire, tifoso. Sono un elettore, ma ormai sono un reporter indipendente. Vabbè, tengo a sottolinearlo. No, ma non c'è dubbio, però Salvo, è vero, sei un reporter indipendente. Dopodiché, poi t'ho visto anche all'inizio della campagna elettorale fare il reporter privilegiato, tra virgolette, sul palco di Grillo, o sbaglio? Sì, certo, non sbagli, voglio dire, c'è comunque stima e affetto, quindi perché non dovrei, quando capita, andare a fare qualche assolutamente live streaming? Parenzo, lo farei anche per Renzi, se mi chiamasse Renzi per fare il live streaming di un suo comizio ci andrei volentieri. Addirittura? Certo, perché no? Ma adesso che ha vinto col 41%, guarda. Ma Grillo ti ha pagato o no? Quando sei andato sopra Grillo. Il palco? No, Grillo non mi ha mai pagato. Ah, per Grillo gratis, per Renzi ti farei... No, io per il momento faccio tutto gratis. Tutto e gratis. Credo che sarà sempre così perché io ho ricevuto delle donazioni, io ho un progetto. Sì, vabbè, quello poi lo spiegheremo. Sul mio blog salvomandara.it, chiunque può fare una donazione per farmi sopravvivere. Quindi non mi servono né i soldi di Grillo, né i soldi di Renzi, né i soldi di nessun altro. Parenzo, dimmi. Caro Mandarà, ma perché non rimani là? Ad esempio, perché non rimane? Ma scusi, ma Palenzo, ma noi non ci lavamo del lei, perché mi sta dando del tu? Che no, perché fare la rima, Mandarà, rimani là. Ma può dire anche rimanga là. No, però. Comunque Copenaghen è una gran bella città, ragazzi. Mandarà, il club, perché siete andati là? C'è qualche deputato? Innanzitutto mi dicono ci sia anche qualche deputato senatore dei 5 Stelle, chi c'è? No, allora in questo momento non sono ancora arrivati, siamo in attesa che arrivino tre parlamentari 5 Stelle che sono Carlo Sibilia, Cominardi e Bernini. Ah beh, tutti fissati con questa cosa. Ma cosa fatela? Tutti fissati, ma guarda che qui vengono pianificati con regolarità i colpi di Stato, cioè fissati siete voi che non volete aprire gli occhi. Salvo, vengono pianificati i colpi di Stato, esattamente, è dimostrato, dimostrabile. Ma per esempio, dimmi un colpo di Stato che è stato pianificato lì a Copenaghen. No, te ne dico, a Copenaghen ancora non lo so. Vabbè, a Copenaghen ne dico tra quelli del Bilderberg. Allora, nel 2011 hanno pianificato il colpo di Stato in Grecia e hanno pianificato il colpo di Stato in Italia. Contro Berlusconi e contro il governo. In Grecia c'era un governo democraticamente eletto, quello di Papandreou, il quale voleva fare un referendum per decidere in modo democratico. Ho capito benissimo, ma al di là di Berlusconi e della Grecia, altri colpi di Stato che hanno pianificato? Questi qua del Bilderberg? Altri colpi di Stato che hanno pianificato? Guarda, a cominciare per esempio dall'assassino di Kennedy. Come l'assassino di Kennedy? Bilderberg, l'assassino di Kennedy. Bilderberg è dal 1940 che è attivo su queste cose, dal 54. Perché non arrivano i carabinieri ad arrestarli allora? Perché non arriva la polizia? Perché ci sono quelli come te che li deridono, cioè deridono coloro che si occupano di queste cose. Sai quanti reporter italiani ci sono qui oggi presenti? Quanti? Io che faccio il live streaming, con me Francesco Modeo, Alessandro Carlucci e un altro amico che si chiama Massimiliano. Cioè nessun altro italiano. Scusa, ma secondo te l'unica giornalista italiana è Monica Maggioni, che però è dentro la riunione, ma ovviamente non racconterà un cazzo. Partecipa ma non racconterà un cazzo, nonostante la direttrice di Rai News 24. Scusami un attimo, come ha fatto la Gruber nel 2013 e nel 2012. Andrebbero questi qua, secondo te, andrebbe circondato questo palazzo e arrestati questi qua? Adesso sinceramente bisognerebbe aprire un tribunale internazionale contro questi oppure qua. Andare alla Corte dei diritti dell'uomo e processare questi criminali, Draghi, Monti, Kissinger, presente anche lui oggi, presente anche lui. Pui, allora Monti abbiamo la fotografia, abbiamo fatto la fotografia. Ma processarli perché cosa? Salvo, per scusa. Crimini contro l'umanità, perché rendono i popoli schiavi, perché istigano la gente al suicidio, ti basta? Parenzo? Io ti consiglio, sto calmo perché sono in macchina e sto arrivando allo studio, sto calmo. Sì. Mandarà? Prego. Sì. Ti do un suggerimento, entra dentro. Vai dentro. Guarda, ieri solo. Aspetta, fai parlare, fallo parlare. Ieri solo perché. Dai Parenzo, stai zitto per favore. Solo perché ci aggiravamo intorno alle transenne, ci hanno tutti identificati, hanno preso nomi. Non ho capito, Parenzo, perché dovrebbe entrare dentro? Spiegami. Ma per forza dovrebbe entrare dentro perché così lo prendono, dicono excuse me, Mandarà, arrestateli tu tribunale, lo prendono per la collottola. Ma prima dobbiamo processarli, non li possiamo arrestare senza un regolare. Prima processare, un attimo solo, fermi tutti. Siamo qui la Zanzara, popolo della radio, abbiamo anche noi il nostro inviato a Copenaghen davanti al club Bilderberg, dove alcuni dicono che si decidono i destini del mondo, addirittura secondo Salvo Mandarà si decidono i colpi di Stato, da Kennedy alla Grecia all'Italia di Berlusconi eccetera eccetera, c'è un club di potenti che decide i destini del mondo. Io personalmente, glielo dico con affetto al caro Mandarà, non ci credo. Parenzo, allora, ovviamente, Luciani, aspetta, Salvo, fermo un secondo, Salvo, Parenzo, tu non ci credi ovviamente, no? Parenzo dice che più che un colpo di Stato, quello di Mandarà è un colpo di sole anche molto pesante, eh. E anche un colpo di testa. Non si decidono nessun destino del mondo se il Rotary decide, e non lo vogliono, Mandarà al Bilderberg, non lo vogliono, hai capito? Perché se va lì e dice salve, sono Mandarà, mi fate, dice no, guardi signor Mandarà. Parla più vicino, sennò non si sente. Scusi, signor Mandarà, che cosa vuole? This is Bilderberg, non è che tu vuoi essere iscritto a tutti i club del mondo, ti chiamano, lì ci sono degli economisti, degli scrittori, degli vabbè, però non hai spiegato niente, Parenzo, non hai spiegato niente, Mandarà, allora. Allora io vorrei fare una domanda a Parenzo, anzi due, molto facili, ma proprio facili, che forse le può capire anche lui. Allora, chi ha rimpiazzato Monti dopo che è stato nominato dal tuo amico Giorgione Napolitano presidente del Consiglio? Sì. Chi è stato, chi è andato nella successiva riunione al posto di Monti? Lo sai, Parenzo? Chi c'è andato? C'è andato una persona che si chiama Enrico di nome, Letta, che ha mandato un famoso fino, che ha detto quando Monti è stato nominato e ha detto wow, questo è un miracolo. Vabbè, ma anche Napoli, anche cioè tutti decisi da Bilderberg questi governi? Questi governi, certo che sono stati tutti decisi dal Bilderberg, perché è successa la stessa cosa in Grecia, è successa la stessa cosa in Svezia, è successa la stessa cosa in Danimarca. Scusa, è Napolitano che c'entra? Guarda, Napolitano che c'entra col Bilderberg? Napolitano c'entra perché lui ha fatto la nomina di senatore a vita per dare una parvenza di istituzionalità e poi dare la nomina a Monti. Cioè ha preso poi ordini da Bilderberg? Ha preso ordini? Certo che ha preso ordini, certo, ha preso ordini, è un cameriere anche lui, ha preso ordini esattamente. E va processato anche Napolitano per questo, dici tu? Beh, io l'ho denunciato a Napolitano, lo sai benissimo, l'abbiamo parlato tre volte. Questo lo sappiamo. Ecco. Senti, però per tornare alle cose italiane, io voglio capire una cosa. Ecco, è arrivato Sibilia, Cominardi e Bernini, sono arrivati qui. Cominardi, tra l'altro, Cominardi in Parlamento ieri ha detto una cosa incredibile, ha detto che la strage di vieni Cominardi. Piazza della Loggia, che ha detto? La strage di Piazza della Loggia è stata programmata, sì, lo dice Imposimato, mica lo dice Cominardi. Vabbè, lo dice Cominardi, Imposimato l'ha detto perché riportando una frase di Imposimato, ma ci crede lui ovviamente a quello che dice, certo, Imposimato. Che ci crede, ma ci credo anch'io, ci crediamo tutti quanti. Cioè il Bilderberg che cosa ha pianificato? Pure le stragi? Beh, ovvio. Ma come ovvio? Infatti, ovvio? Ti dico una cosa, se il Movimento 5 Stelle avesse preso il 45-50% dei voti, in questo palazzo magari starebbero discutendo la prossima bombetta da qualche parte. Ovviamente questa è una congettura, invece un'altra cosa ti dico, perché c'è la signora Maggioni, Monica Maggioni? Vabbè, ma quella è stata invitata per relazioni, ma perché? No, perché? Ma scusami Cruciani, tu che sei un giornalista vai in una cosa del genere, io non ci andrei, non lo so, non riporta niente, ma vedremo. Non so stare che tu ci andresti o no, ma dico, uno va a una riunione del genere e poi non riporta neanche una parola, ma che cazzo di giornalista è? Vabbè. Allora perché va? Vabbè, adesso lascia ma per informazione, per informarsi, per capire come funziona a livello internazionale. Per informare se stessa, ma il giornalista non deve informare se stesso, deve informare la gente. Ma che cosa è venduta a Bilderberg? Perché si mettono d'accordo su come manipolare l'informazione. Ah, cioè e lei è andata lì per manipolare l'informazione. Certamente. Basta vedere il lavoro che ha fatto la Gruber nel 2012-2011. Ma io sei spero anche che tu ti prenda una bella querela, guarda, perché dire ma che io lo spero, io no, non è che lo speri tu, io spero di prendermi una bella querela, così poi davanti al giudice posso dimostrare quello che dico. Io ho denunciato molti di questi, ma purtroppo hanno querelato la mia denuncia. Però scusami un attimo. Sì. Voglio capire una cosa, parliamo di un altro argomento. Tu sei d'accordo con questa alleanza? Adesso io la chiamo alleanza anche se nulla è fatto, tra Grillo e Farage, che è un personaggio di destra, sostiene alcune cose di destra. Dimmi la verità, io non ne so, io non so niente ancora di questa presunta alleanza. Quindi quando la cosa sarà ufficiale ne discuto. Io so solo che si sono incontrati, so che Farage e Grillo entrambi hanno detto che non sono interessati a un accordo con Le Pen, questo lo so sicuramente. Per il resto non so nulla, fin quando non saprò qualcosa di certo non mi interessa. E i brogli ci sono stati secondo te durante le elezioni europee? È una cosa che ho pensato anche io, ho fatto una diretta Fiume sul mio canale. Vabbè, che si chiama Salvo 5.0 e durante la nottata anch'io ho ipotizzato questa cosa. Poi ho capito che probabilmente no, perché basta analizzare i flussi elettorali e in effetti si vede che 2,5 milioni circa dei 2 milioni e mezzo di voti in più che ha preso il PD vengono dal gruppo Forza Italia e Nuovo Centrodestra. Vabbè, senti una cosa, ma è colpa degli italiani? Probabilmente. È colpa degli italiani? Come dice Dario Fo, come dicono altri, cioè sono gli italiani che hanno votato male, sono gli italiani, pure Grillo ha detto che è colpa dei pensionati che non guardano allora, il futuro in parte. Allora, se tu mi chiedi, tu pensi che il popolo italiano sia in buona parte un popolo di merda, di pecoroni? Sì, la sì. risposta è sì. Se mi chiedi ma è solo colpa loro, la risposta è no. Sicuramente sul piano della comunicazione il Movimento 5 Stelle ha fatto degli errori e spero che presto fa parte un'analisi per capire quali sono stati questi errori per correggerli. Quindi sono vere entrambe le cose, secondo me, questa è la mia opinione personale. Ma chi c'è vicino a te? Sibilia, Cominardi, chi c'è? Sì, sì, c'è Sibilia, Cominardi e Bernini. E Bernini, vabbè, tutti e tre. Bernini. Tutti sono e tre parlamentari. Ma tutti e tre convinti che Bilderberg sia all'origine di tutti i mali? Ma no, ma non è che solo Bilderberg. Vabbè, dimmi, anzi, ti dico una cosa, Sibilia, sai cos'è fare? Peggio? Sai cos'è peggio? Sai cos'è peggio del Bilderberg? Cos'è? Il Club dei 30, che è un gruppo ancora più... Tu manco sai che cos'è, ovviamente, ti sembra una bocciofila. Ma figurati. Il Club dei 30 è ancora una cosa ancora più grave perché sono solo 30 persone e ci sono Trichet, Draghi, che senti, si sono astronati alle BCE, guarda caso. Ma Sibilia, gli chiedi a Sibilia se dopo vuole fare 5 minuti con noi, ti giuro che non lo pigliamo per il culo. Andiamo, ti giuro. Avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega, cioè non, ma perché basta con questa radiola di merda? Basta, forza, dai, su, fate un altro lavoro, no? Caro Parenzo, ciao belli, colpisce ancora. Cioè, ciao belli. Devi intanto però il mitico De Montis, il mitico non me, che cosa vuoi Parenzo, cosa vuoi, no, che sei, sto salendo in radio. Ma non me ne frega niente che stai salendo in radio. Udine 23 che a tempo di record mi ha portato qui per le 7. Non si sente, è inutile che parli, non si sente, non si sente. Giambattista De Montis, ciao belli. Pronto, parlo con la Zanzara, Radio 24. No, ho sbagliato il numero. No, allora, buongiorno, dottor Cruciani. No. Chi vi parla è Giambattista De Montis. Non è, chiamo da Fuji, una piccola frazione, diciamo qua vicino a Cagliari, sul mare. Dottor Cruciani, lei ha dichiarato che fa la doccia, che fare la doccia troppo spesso fa male, no? Allora io, dottor Cruciani, l'ho presa alla lettera, l'ultima doccia l'ho fatta col governo Monti. Ma tutto nasce da una discussione che non so come l'abbia saputo questo De Montis, da una discussione che ho avuto con la Cabello, la conduttrice della RAI, con Vittoria Cabello, perché io ho detto ma non è che uno per forza si deve fare la doccia ogni giorno, uno non è detto che uno si debba per forza fare la doccia, uno si può anche lavare senza farsi la doccia. Lei era scandalizzata, ha detto oddio, beh, è uno scandalo, eccetera, come fai? Una discussione privata, ovviamente, durante una festa. Come fai a non farti la doccia ogni giorno? Io ho fatto la Vittoria, non mi faccio la doccia ogni giorno. Può capitare che non mi faccio la doccia, mi lavo in un altro modo, no? Che orrore! Ma non è che orrore, che vuol dire? Una cosa normale, comunque. Buongiorno anche a lei, dottor Parenzo, che è qui che dice Parenzo. Ma come può essere? Lei fa la bella vita. Perché? Lei viene lì alla radio, alla vostra radio, Radio 24, sì? Che tanto ha già preparato tutto il dottor Cruciani. Sì. Lei pensa, solo a portare a letto le donne. Che mi hanno detto che lei è una sorta di Rocco Siffredi in giacca e cravatta. Poi bisogna vedere se prende l'aiutino chimico, come fa d'altronde il dottor Cruciani, che se la ride sotto i baffi, sotto la barba. Zanzara! Poi cos'è quest'altra roba sul nipote Carmine? Cos'è? Sentiamo. De Montis, mitico De Montis, uno che interviene sempre a ciao belli, boh, non so chi è. Mio nipote Garmin, 19 anni, navigatore. Sì, si chiama Garmin, ogni mattina si fa un frullato con due mele, un pompelmo, un quarto di radice di zenzero e mezza pastiglia di Cialis. 19 anni, pensate che non ha ancora avuto la ragazza e non ha mai avuto, lo fa per farsi trovare pronto quando sarà il momento. Cioè lui sta sull'attenti, capito? TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Ren- Renzi alla direzione del PD, dall'Europa risposte insufficienti alla crisi, tocca a noi cambiare, l'ironia su Grillo, con Farage niente streaming? Conferenza stampa Lega Forza Italia, ma Berlusconi non c'è, Toti per le alleanze nessuna fretta, ripartiamo dalle cose concrete. Dissenso nei 5 Stelle per l'incontro Grillo-Farage, scontro su un documento interno che chiede un cambio di marcia dopo le elezioni. Tempi lunghi per le nomine in Europa, incarico a Olli Rehn per una mediazione, mentre gli anti-euro cercano un'intesa. Romano Prodi, ospite al TG3. Squinzi a Renzi, forte mandato popolare, ora non deluda, servono i fatti, riforme per un'Italia nuova, salari legati ai risultati aziendali. Sì della Camera al divorzio breve, un anno se non c'è accordo, 6 mesi con il consenso dei coniugi, la legge ora al Senato, cattolici contrari. Stuprate dal branco e poi assassinate 2 cugine di 14 e 15 anni. In India inarrestabile la piaga della violenza sulle donne. Oh ragazzi, non so se avete sentito lì Parenzo, anche tu, non so se hai sentito, eh. Sì, ho già un ospite al mio fianco. Sì, no, lo so, però deve attendere un attimo l'ospite. Allora, non so se tu hai già sentito questa cosa qui sul divorzio breve, cattolici contrari. Io dico, ma come cazzo si fa a essere contrari al divorzio breve? Cioè, dei cristiani hanno deciso di non stare più insieme perché la storia è finita, perché l'amore è finito, perché la passione è finita, per mille ragioni. Beh, invece di aiutarli dal punto di vista burocratico, perché è una rottura di coglioni pazzesca, invece aiutare i cattolici, perché poi non sono i cattolici, tutti i cattolici, una parte di cattolici, dicono no, non si può divorziare in 6 mesi, non si può divorziare in un anno, ti devono fare soffrire 2, 3, 4, 5 anni, ma dai, su, dai. La miseria. Io voglio vedere Forza Italia su questa roba qua. Tu lo sai Berlusconi perché non è andato alla fine a firmare lui, come aveva detto al telefono con Salvini, il referendum sulla legalizzazione della prostituzione della Lega? Referendum sacrosanti? Beh, perché scusami, il suo governo aveva fatto tutto il contrario. A parte quello, sarebbe stata una contraddizione. Ma anche perché ha detto, mi hanno riferito dalla riunione di ieri, beh, però non lo so perché c'è il mondo cattolico, capito? Il mondo cattolico. Mondo cattolico, ma di cosa stiamo parlando? Il mondo cattolico non esiste, esistono le persone, non il mondo cattolico. Ma esistono delle associazioni, esistono anche delle associazioni che rappresentano pezzi di mondo e spostano voti. Ma non è che esiste il mondo cattolico, esistono le persone. Sì, esistono anche delle associazioni influenti. Influenti che organizzano del consenso. Capito, che ma è una tu cosa devi normale, pensare no? non a questi, normale. Devi pensare. Ma perché mi viene ogni tanto la voce di Grillo? Veramente, ma è normale. Mi viene la voce di Grillo, io non so perché. Oh, Cristiano da Bologna, buonasera, Cristiano. Abbiamo un sacco di roba stasera. Guarda che qui l'ospite è caldissimo. Sì, sì, adesso vengo a lui. È Cristiano, caldissimo. Cristiano Bologna, Cristiano. Sì. Buonasera Cristiano, buonasera Parenzo. Vai. No, buonasera. Io ho telefonato perché in passato, prima delle elezioni, devo dire che soprattutto Cruciani ha avuto anche delle parole abbastanza simpatiche nel confronto dei grillini di Beppe Grillo. Non capisco dopo le elezioni che hanno perso, premetto che io non sono un grillino, non capisco dopo le elezioni questo attaccare, questo parlare, avete cambiato completamente l'atteggiamento. Perché? Ma chi ha cambiato atteggiamento? Non ho capito. Siete 2 giorni che Grillo qui va a fare la coalizione. Pare che non ha fatto nessuna coalizione col personaggio che dice lei. Cioè, lo ha incontrato, è l'unico con cui si è fatto fotografare, mi sembra, no? L'unico che ha incontrato, capito, il signor Farage. Però se guardiamo gli incontri, andiamo a vedere chi la gente che ha incontrato, potremmo dirne di tutti i colori. Vabbè, ma qual tutti. È il problema? Non ho capito. Ha detto andremo a Bruxelles a creare guai. Lui ha condiviso questa cosa qua, ha ospitato sì, anche. Capito, ma non ho capito, ma che male c'è? Ma mica è un criminale questo qua. Stiamo dicendo semplicemente quello che pensa Farage e i suoi. Ma perché se Grillo dice faremo dei guai, sembra che venga giù Cristo ma di Dio. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Le parole degli altri politici che ma dicono delle cose ben peggiori, cioè non si dice niente. Ma qual è il suo problema? Che spottiamo queste cose, che prendiamo in giro i grillini per queste cose, il suo problema ma è no, questo? No, ma hanno perso, ma lasciamoli lì nella loro buca e buona lei, parliamo di cose più importanti. Vabbè, ma io parlo di quello che mi pare. Maurizio questo da Genova. No, ma quello è l'unico discorso. Maurizio da Genova. Sì, buona, Buonasera Cruciani e Parenzo. Dimmi Maurizio. Io ascoltando due cose vi devo dire. Comincio con la più sciocca, quella della doccia. È ora di finirla con questa ossessione assolutamente di farsi la doccia tutti i giorni. Questa cosa nasconde proprio il bisogno di pulirsi da qualcosa. La doccia si fa quando serve, punto e basta. Scusate. E invece adesso volevo passare alla cosa più seria. All'inizio, di chi è che avete parlato? Di Pittella? Chi era quel personaggio? Pittella con l'inglese, sì, Pittella allora, con l'inglese. Questo personaggio, mi sembra di aver capito, che svolge dei ruoli importanti presso il Parlamento sì, europeo. Non sa parlare molto bene inglese, si arrangia, si arrabatta. Allora sì, ma è un problema gigantesco. È vero che nel Parlamento europeo... Ho capito, ma lo dica a quelli che gli hanno dato 200.000 passavoti. Non è che possono essere eletti al Parlamento europeo solo scienziati. Certo, è curioso che questo sia vicepresidente del Parlamento europeo, è parlamentare europeo da un po' di tempo, e insomma il suo inglese sia un po' claudicante, nonostante i presunti miglioramenti che lo stesso ha vantato davanti alle telecamere. Tango fa cagare, se meglio il radio, ti voglio bene, un bacio a tutti e due. Ti abbraccio, ti amo, è una cosa diversa, imbecille. Per amore. Enrico Lucci alle prese con la politica. Dove andiamo? No, dalla Sant'Anché, sentite. Sant'Anché, Lucci, Sant'Anché. Daniela, eravate il primo partito d'Italia, mo siete diventati il terzo. Come ci si sente quando uno non conta più un cazzo? Invece noi crediamo che il centrodestra conti ancora molto. Le analisi si sprecano. Sai quanti sono andati a votare? Lo sa? Vabbè, ma te stai arrampicando sui specchi. E di fronte alla sconfitta? Ma non ti preoccupare. Mi vede preoccupata? Un pochetto, si te ma vedo tirata. Ma assolutamente. Ti vedo un po' tirata. Si fa buon viso. Tu ridi ma ti vedo un po' tirata, non lo so. Si vede che sarà la vecchiaia. Oh, con Verdini, sentitelo con Verdini. Che t'ha fatto male sto suppostone? A me suppostoni mai, sempre via orale. Ah, hai capito Verdini. Anche se ognuno è stata una bomba atomica. No, vanno letti bene i dati, vanno letti bene i dati. Ah, te inventa cazzate. La prende. Diciamo che avete dato una sveglia tra capo e collo. Poi c'è Villa Rosa, 5 stelle, sentite, Lucci, Villa Rosa. Sono piccoli e signore. Rompiamo questo, spacchiamo questo, affanculo quelli. Il dito nella piaga. E poi è finito tutto con una scureggia. C'è sempre. Te fa male il sederino? No. Sta su postina. No, l'ho presa. Il ministro della difesa, Pinotti, PD. Come ministro della difesa, questo... Lei dovrebbe già non abbracciarmi scusi. Così. Come ministro della difesa, questo missile terra-aria nel sedere di Beppe Grillo, sa dirmi da dove è partito? Grazie. Caro Parenzo, adesso arrivo col nostro ospite, un altro paio di ascoltatori. Andiamo con Felicita da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Io volevo dirle, lei all'inizio ha introdotto l'argomento sul divorzio dicendo ma possibile questi cristiani non possono decidere... Ma cristiani era generico, cristiani era generico. No, perché appunto mi veniva proprio da dire non sono cristiani, perché il punto è proprio questo. Il matrimonio per un cattolico è indissolubile. Sì, però ragazzi, non scherziamo su queste cose qua. Dai, è chiaro che bisogna approvare questa roba qua del divorzio breve. No, non si può approvare. Perché vabbè. Chi crede che il matrimonio è indissolubile non potrà mai consentire che si faccia questo grande errore. Ma che c'entra? Allora non crede, ma userà questo diritto. Se vuole il voto dei cattolici... I cattolici non possono permettere che si compiano degli errori così gravi e quindi non debbono votare a favore del divorzio, non debbono votare a favore dell'eutanasia, non debbono votare a favore dell'aborto, tanti errori sono stati fatti sì, ho capito, e ora però... ne paghiamo le conseguenze tutti. Cioè lei non vorrebbe né aborto, né eutanasia, né divorzio, niente, cioè una società che si ferma diciamo all'inizio... No, non è che si ferma la società va avanti perché comprende che certe cose... si possono affrontare in maniera diversa. Marco da Catania, grazie. Marco da Catania. Dimmi, Marco. Ah, pronto? Vai, dimmi. Ciao, senti, allora, questa cosa di Pittella è incomprensibile. Quello è così bravo che almeno sai, uno dei pochi politici italiani che parla inglese. Io non capisco perché non ci scandalizziamo mai. Quando vengono i francesi, vengono in Italia. No, uno dei pochi italiani che parla inglese, no, cioè parla inglese male. Cioè, parla inglese con un accento molto, molto maccheronico, ma va benissimo, cioè, i francesi, è una presa per il culo. In Italia che parlano e dicono, e parlano così, no, ma io non posso prendere perché se sì, ma l'italiano non è una lingua internazionale, ti voglio sottolineare, ti voglio far presente, caro Marco, non è che nei consessi internazionali parlano italiano, forse l'inglese è più indispensabile o no? Quando viene Friedman, l'inglese americano, in Italia... Ah, ridai con l'italiano, l'italiano... È ridicolo, non possiamo prendere economia perché economia... Dai, e adesso perché abbiamo un barese, diciamo, simpatico, dai, perché poi Vittorio è simpatico... Ma chi ti ha detto che non è simpatico? Ma io non ti ho detto nulla, ho detto semplicemente che fa ridere, primo, il suo inglese maccheronico la prima volta in quel video che è girato... Secondo, il fatto che lui dice ho migliorato l'inglese, ho studiato, e in realtà siamo al punto di prima, più o meno siamo al punto di prima, capito? Vabbè, Marco, poi? Ma questo non migliora mai, perché la pronuncia ce l'ha in quel modo, è inutile che studia, diteglielo, non può migliorare. Poi, andiamo avanti. Fatevene una ragione, parlerà inglese in questo modo, tanto lo capiscono, chi lo vuole capire lo capisce, chi non lo vuole capire non lo capisce, quelle cose stanno così. Poi? Va bene, detto questo, sono d'accordo con te sulla doccia, se ne può fare una alla settimana, per il resto uno si lava... Una alla settimana mi sembra esagerato, vai, mio amico mio, una alla settimana mi sembra esagerato. Basta che ti lavi tutte le altre cose, un giorno sì e l'altro no. Risparmiamo acqua, risparmiamo, inquiniamo meno l'ambiente, insomma si risparmia sugli scianti che inquinano di qua, ma non solo ma anche la macchina, non c'è bisogno di lavarla, ci sono quelli che... Ma tutto questo nasce da una roba che ho raccontato da Nicola Savino questa mattina, cioè un mio incontro con Vittoria Cabello, in cui ho detto a Vittoria, guarda, io non è che faccio la doccia tutti i giorni, ma orrore, sei uno zozzone, eccetera, no, io invece mi faccio due docce al giorno, eccetera. No, io me la faccio... Un giorno sì e l'altro no. Possono passare anche due giorni, ma ci si può lavare in un altro modo, capito? Io avevo un grande stabile, ero stabilmente sicuro di essere padrone dell'intero universo. Ma è con noi dagli studi di Roma, caro Parenzo, annuncialo tu. Lo so, il tra poco... Rionorevole Mario Borghezio! Un padano a Roma! Caro Mario, come siamo messi qui? Salvini ha fatto la sua scelta? E Salvini deve essere proclamato e sarà proclamato in tutti i collegi in cui è stato capolista, al nord-ovest, al nord-est e al centro. È stato eletto trionfalmente in tre collegi. Quando arriverà la proclamazione, ovviamente dovrà optare per uno dei collegi. Qualcuno sostiene, questa è la regola generale, caro Mario, lo sappiamo. Qualcuno sostiene che se non opta, cioè se dovesse optare per il collegio centrale, e tu rimarresti fuori, perché c'è una pressione nei confronti di Salvini per far entrare al Parlamento europeo l'onorevole Ciocca, che è uno che vuole Maroni. Signor Ciocca, o no? Non è onorevole. Ma questo l'ho letto anch'io nello spettegules giornalistico. Sì, tu te ne fotti di questo spettegules, ovviamente. Io me ne sono sempre fottuto dello spettegules giornalistico, a maggior ragione quando riguarda la situazione. Però, dimmi la verità, sarebbe anomalo. Dico, sulla quale io credo, conoscendo la Lega, che varranno criteri di meritocrazia. Cioè? E quindi, un conto è, diciamo, combattere una bella battaglia come quella che i candidati hanno combattuto nella confortevole Lombardia. Un conto è combatterla qua a Roma. Certo, non c'è dubbio. Diciamo, in trincea aerea. Diciamo in condizioni organizzative un pochino più difficili. Te volevano far fuori, diciamo Io ho fatto delle battaglie elettorali nel confortevole Lombardia e nel confortevole Piemonte, nel confortevole Val d'Aosta. Non è confortevole qui il Lazio. No, è confortevole, ma organizzativamente parlando la Lega è praticamente senza... Diciamo quei 5.000 voti quanto valgono in in un altro posto, ma intanto sono quasi 6.000. Vabbè, quanto valgono questi quasi 6.000 voti? No, uno per uno penso di poterli, non dico conoscere ad personam, ma diciamo che però scusa, quei 6.000 voti in un altro posto nel nord-ovest quanto valgono? 50.000? 50.000. Ma io penso che possiamo tranquillamente moltiplicarli per 10. Per 10 addirittura, cioè 60.000 tranquillamente. Sì, sì, sì. Dunque tu dici virtualmente e per 10 anche quelli dopo di me, perché no, certo, ci sono altre persone che hanno preso 1.000, 2.000. Ma chi sono questi che ti hanno votato, Borghezio? Beh, gli amici, ringraziamo gli amici di Casa Pound. Una bella mélange, e certo credo di aver sfondato abbastanza chiaramente, abbastanza evidentemente nell'elettorato di destra. Sì, non moderato, non moderato. Magari non moderatissimo. No. Ecco, no. Esatto. No, e però sì, i signori di Casa Pound, vogliamo ringraziare i signori di Casa Pound, vuoi ringraziare? Ma io l'ho già fatto. Moderati, secondo te sono moderati? Moderati questi signori? Solo per bene. Sono persone per bene, molto migliori di come vengono dipinti. E quindi, per esempio, però, meglio di Marino, per esempio, meglio di Marino. Ma ci vuole anche poco. Però intendo dire, meglio, ma perché è tutto scritto in vero. Vi faccio un esempio. Ma sono un po' fascisti quelli di Casa Pound. Un esempio. Vagamente, diciamo. Ma camerati, diciamo che gli amici di Casa Pound, diciamo che certamente non sono antifascisti. No, questo è una garanzia. Questo è sicuro. È una garanzia. Nessuno li calunni chiamando quelli di Casa Pound antifascisti, perché non sarebbe delicato. Però sono della tua banda, diciamo, sono della tua banda. Ecco, dai. Però voglio dire una cosa, vi faccio un piccolo esempio. Un giorno mi capita di andare in un quartiere popolarissimo di Roma, uno dei più popolari, e vedo un giardinetto. Sì. Un giardinetto che è un piccolo paradiso terrestre. Conosco un giardinetto, e vedo questo giardinetto non come quelli gestiti dal comune di Torino, pieni di spacciatori, figli di buona donna, gente che non sai, che sputa per terra, che lascia le schifezze. Vabbè, cioè, un giardino perfetto, un giardino pulitissimo, ben recintato. Mi informo e mi dicono che gli abitanti di questo piccolo quartiere se lo sono recintato a loro spese, dunque tengono pulito. E c'è uno spazio per gli anziani, ho visto tutti gli anziani con le loro belle panchine pulite, nessuno che ci sta stravaccato tutto il giorno spacciatore, e poi tutti italiani naturalmente. E poi ovviamente decorosamente, giustamente e consapevolmente romanamente. E dall'altra parte le mamme con i bimbetti che giocavano paletta, secchiello, tutto questo eccetera, per dire? E tutto questo per dire che mi sono informato e salta fuori un tizio con una maglietta casualmente nerissima, e gli hanno detto è l'organizzatore del tutto. Casualmente nerissima, esatto. Cosa vuol dire? Scusi. Casualmente nerissima di Casa Pound. Fanno le ronde di Casa Pound. E fanno delle ronde. Cioè Casa Pound fa anche queste cose. Se ci fossero dei ragazzi che fanno queste cose, cioè, naturalmente con un sostegno popolare incredibile. Cioè adesso, quando vanno alle elezioni, pigliano percentuali minime. Da questa persona, io sono diventato l'ospite d'onore del giardinetto, e tutti gli anziani vogliono conoscermi. Frequento solo da bianchi, questo rigorosamente. Non ho visto stranieri. Se amministrassero Roma, i signori di Casa Pound andrebbe molto meglio per Roma, dici tu. Guardi, a fare meglio di Marino non c'è di grande difficoltà, però loro farebbero, secondo me, molto bene. Io penso che un sindaco di Casa Pound ci starebbe bene a Roma, anche come cambiamento. Un po' di pulizia farebbe, un po' di pulizia, eccetera, diciamo, eccetera. Gli stranieri ne manderebbero secondo via a fronte. Sarebbe buono. Beh, ecco, insomma. Un po' di a proposito, magari, caro Mario, ieri era qui nel nostro quell'attimino di disciplina lo introdurrebbero, e soprattutto pulizia cioè, i giardini sicuramente sarebbero curati meglio di come li cura sta amministrazione. Poi sono andato in quartiere di Sette Camini. Aspetta un secondo, Sette Camini abbiamo già detto più tardi, però io vorrei capire una cosa da te, Mario. Ieri abbiamo avuto qui ospite la signora Chieng, la signora Chieng ci ha detto: beh, io quando arrivo al Parlamento europeo stringo le mani a tutti, e noi abbiamo detto anche a Borghezio. Beh, è un essere umano anche lui, ha detto, pensate, è un nonostante l'aspetto. No, questo non l'ha detto. È un essere umano anche lui. Certo, è razzista perché dice delle cose razziste, però alla fine gli stringo la mano. Lo vogliamo fare questo incontro dato che sei un essere umano, così ha detto la signora Kyenge, oppure stato, no? Perché quando la signora Kyenge da sottosegretario è arrivata al Parlamento europeo, ministro, è rimosso, con sua grande sorpresa, non so se con soddisfazione, all'ingresso, siccome io sono mattiniero, alle 8:15 ha trovato me. Beh, tu sei eri lì apposta. Casualmente ero lì, certo. E l'ho detto, benvenuto ministro, le serve qualche cosa, le posso fare da guida. Dovevate vedere la faccia dell'ambasciatore che l'accompagnava, non sapeva che pesci pigliare. Io ho anche proposto un caffettino e loro mi hanno detto, imbarazzatissimi, che avevano già degli impegni, eccetera eccetera. C'è stato un bel incontro. Vabbè, ma che vuoi dire alla signora Kyenge? Che cosa vuoi dire? Che ha trovato l'America in Italia e trova la seconda America al Parlamento europeo. Diciamo, ma è felice lei che ci sarà anche la Kyenge, un bel segnale per l'Italia. Diciamo, no? Che grazie al partito di Renzi, diciamo, ha trovato una bella vigna, come si dice nelle mie parti. Vabbè, anche tu allora, Mario, diciamo, nel senso più simpatico e più cordiale, sì, possibile, ci ha avuto un bel culo. Perché? Perché? Ci ha avuto un bel culo a incrociare Renzi, diciamo. Ma non è bello, bellissimo avere questa italiana di colore che siederà a Strasburgo a rappresentare l'Italia, bellissimo. Una cosa bella, meravigliosa. Io dico che con quello che offre la politica, diciamo che non ci sta poi malissimo, no? Rispetto al tessuto medio della politica italiana, vedremo se lavorerà. Io questo non l'ho ancora. Comunque tu dici ha avuto un gran culo. Vabbè, si può dire di tutto, ma c'ha un bel culo. Vabbè, ho capito, 90.000 però ha preso voti, 90.000 voti. Cavolazzo, vuol dire che il partito si è schierato, forse anche un po' quelle COP che nel settore dell'immigrazione ci intingono un pochettino il biscottino. Il biscottino, sai, il biscottino. Quello che si mette nel cappuccino, no? Senti, però, e si magna. Bisogna si dire, magna. Caro Mario, che adesso col gruppo di Le Pen è un'altra storia. Quando lei parla di Le Pen mi si apre il cuore. Ah sì? Una bella famiglia. Il vecchio Le Pen è stato un paralge nella guerra d'Algeria. Ha torturato. È lì che ha dato il meglio. Ma come? È lì che ha dato il meglio. Ha torturato della gente. Ma per carità. Come? Ma un paraera. Qualche schiaffettino. Ma quando mai? Così. Ha detto che le camere a gas erano un dettaglio della il vecchio storia. Le Pen, il vecchio Le Pen, vi posso assicurare, ha il culto degli archi. Degli arabi che hanno combattuto con i francesi. Beh, capito, il culto degli archi. Comunque ti si apre il cuore. Votano FN. C'è un voto arabo in Francia. Per Le Pen ti si apre il cuore, diciamo. Quando parli di Le Pen ti si apre di il Le cuore. Pen, diciamo che la figlia, naturalmente, è moderata, diciamo. La figlia è straordinaria. Ma il padre? Il padre, diciamo che è stato un buon insegnante. Un buon insegnante. È un eroe per lei, sto Le Pen. Ma è stato un eroe di guerra perché è stato decorato, quindi come tutti ne avessimo noi di coraggiosi come Le Pen. Diciamo che è stato un eroe della guerra d'Algeria. La guerra d'Algeria è stata una bella guerra. Ma come bella? Ma non si può dire che è una bella guerra. Il colonialismo ha avuto degli aspetti strapositivi. Ma come? Strapositivi. Qualche ombretta, qualche piccola ombra, ma tanta luce. Pensiamo al nostro, gli italiani hanno costruito strade, ponti, portato l'acqua, l'igiene, la salute, non ce l'avrebbero scuole, non ce l'avrebbero la religione, fatta, l'alza bandiera, da soli il saluto al duce, tante cose, il saluto al duce, tutte cose che in quel periodo, voglio dire, come dire, davano a queste popolazioni una certa sicurezza. Da soli non ce l'avrebbero fatta, diciamo, Mario, diciamo la verità. Da ma soli. Scherziamo, abbiamo portato molte migliorie. E se ne ricordano ancora adesso, perché basta andare a parlare con queste popolazioni. Io credo che anche in Algeria, anche in Algeria stessero meglio quando comandava. Quando diciamo c'era la Francia. Ma Le Pen ha detto di Ebola risolverà il problema dell'immigrazione. No, questa è stata una frase, diciamo, dal sen fuggita, che io non pronuncierei mai, perché Ebola è una, diciamo, è una bruttissima cosa che non si augura al peggior nemico. Vogliamo dire qualcosa di questo Farage? Bel farinello, signor Farage, si dice dalle mie parti. Bel farinello. Ma che cos'è? Ma dicono che beva un po'. Dicono. Ma quello sa non è un difetto, non lo attaccherei per quello, no? Perché poi dare dell'ubriacone a uno che è ubriacone non è simpatico. Ah, me lo è. Capisci? Beh, però lei dice delle cose terribili. A uno che è ubriacone, dare dell'ubriacone non è simpatico, specialmente è. Quando rappresenta una forza politica, no? Lo è comunque. Uno che esce alla sera dai locali e non si sa, sembra uno che è sulle navi quando c'è il mare agitato, certo non dà una bella immagine. Ma questa è una caratteristica positiva al confronto fatto di quelle negative. Sì. Questa, è una, questa è la sua caratteristica più positiva. Il fatto che beva. Il fatto che, diciamo, ma scusa, per... indulga all'ottima birra che si beve a Bruxelles e a Strasburgo. Questo è l'aspetto positivo. Gli aspetti, passiamo agli aspetti negativi. Quali dopo sono? Aver detto tutto il bene possibile. Si è alleato, sembra che si sta per alleare con Grillo, lo sai, no? Ecco, Grillo forse... diciamo un uomo simpatico ma non informato, non sa che cosa rappresenti il signor Farage. Noi abbiamo avuto modo di conoscerlo, perché sa, vabbè, dimmi qualcosa di negativo. Quali sono le cose negative? Le cose negative sono queste: lui non è come noi europeista contro i disastri dell'Unione Europea, lui è eurofobo ed è contro questa Europa. Vabbè, ho capito, non questo. In nome dell'Europa dei popoli, delle regioni, dei popoli, dell'identità, ma in nome degli interessi della City di Londra, che non è esattamente un coacervo di interessi politici. Quindi non può essere un vostro alleato di trasparenza. Lui non può, io penso che non debba essere il nostro alleato. Ha detto molto bene Salvini, lo volevi pigliare a calci in culo una volta. Ma sa, io alle volte uso delle espressioni un pochettino quando sono nervoso, avevo un momento di polemica. Io dico semplicemente che politicamente noi non dobbiamo andarci a prendere neanche un caffè, perché rappresenta interessi, sensibilità, idee contrapposte alle nostre. Io lo dico subito. È contrario alle dogane, ai dazi, scusi, per difendere i nostri prodotti, perché è per le liberalizzazioni più estreme. Poi, secondo discorso, è nemico giurato di tutti, di tutte le autonomie, di tutti gli indipendentismi, perché qui nei TG continuano a chiamarlo indipendentista. Grillo... un cazzo indipendentista, lui è contro i legittimi aspirazioni all'indipendenza degli scozzesi. Quando va in Scozia o in Irlanda lo prendono a calci in culo, si è dovuto rifugiare in commissariato protetto dalla polizia, inseguito dagli autonomisti. Quindi noi che cazzo ci azzecchiamo con un tipo del genere? Nulla. Detto con, diciamo, il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera, eccetera, religiose, civili, sacre, eccetera, non conta un cazzo. Ormai è tutto degradato. Ah, vorrei segnalarti, caro Parenzo, che qualsiasi cosa tocchi il professore avvocato Carlo Tormina, che omaggio ovviamente, questa finisce a puttane, Voto Grillo, boom, tonfo elettorale di Grillo. Affossato, dai, Grillo. Su. Mica per colpa sua. Ma no, capito, però sarà. Qui intanto volano aneddoti, ma che ti racconteremo in altre sede, sul signor Le Pen. Grandi aneddoti sul signor Jean-Marie Le Pen. Allora, però andiamo sulle cose serie, sì, caro Borghezio. Allora, io dico una cosa, abbiamo con noi in studio a Roma Mario Borghezio, quasi eurodeputato della Lega Nord, per non so l'ennesima legislatura. C'ha il fazzoletto verde, cioè per Roma ti segnalo che gira con il fazzoletto verde. Sempre, e anche tutta la campagna elettorale. Però scusami Mario, facciamo un appello a Salvini. Facciamo un appello a Matteo Salvini. Adesso bisogna dirla questa cosa qui. Non puoi optare. Dimmi. A Matteo, tieni conto che se siamo fatti in culo, impressionante. Non è come cerca voti in Badania. Qui se sta difficile, è problematico. Qui si sta a trovare i fans della Lazio, che sono incazzati con i fans da Roma. Giri e dici via Lazio, ti arrivano quelli a Roma di fare un culo così, che famo? Qui c'è navigazione a vista, è stata l'impresa, tieni conto, non è stato facile un cazzo. Organizzazione molto, molto, molto utile, praticamente un cazzo. E quindi se siamo fatto tutto da noi, è stato un fai da te colossale. No, e poi devo dire, alla fine abbiamo sfondato, perché io e anche gli altri candidati avevamo raccolto un discreto consenso. Tu hai sfondato in televisione e hai fatto il 99%, ma noi ci siamo fatti tutti un culo indescrivibile, quindi ci meritiamo un premio. Ficcamo sta bandiera alla Lega a Roma e non la lasciamo più, ficcamo una grande bandiera alla Lega e con sta Lega a Roma famo la Lega Romana, no? La Lega Romana una dependance della Lega del Nord, che continua a essere la Lega Madre, però qui c'è sta una bella Lega romana, diciamo, con tanto di gladio. Ecco. Dunque, scegli, voi ci avete a spada di Alberto Raggiussano, e noi qui abbiamo la spada romana. Allora, ed è una bella spada. Scegli il nord-ovest e manda Borghezio. No, scegli anche il nord-est, scegli che cazzo vuoi. L'importante è che scegli bene. Ecco, non so se mi spiego. E mandami al Parlamento europeo. Comunque ci fidiamo perché l'uomo è valido, è saggio. Però e sarebbe, sta fidando diciamo, bene la Lega. Sarebbe una follia, sarebbe ingiusto chiedere a Salvini di fare quello che vogliamo noi. E il giusto è chiedergli di fare quello che è meglio per la Lega, e io sono convinto che lo farà. Poi quello che è meglio per la Lega sarebbe paradossale se il segretario della Lega scegliesse. Ma tanto la prossima volta famo un disastro qua, qui famo i deputati, i senatori, quindi se preparo quelli che vengono dopo casa di me, a Roma, tu. Quelli che prendono io già ho piantato ma dove dorme a casa già, Pound, no, quando viene qui? No, io mi sono ficcato a sede del gruppo in via Uffici del Vicario. Cioè dormi dentro la camera? Come ufficio, come punto di riferimento. Ma dove dormi a Roma? Dormo in albergo come tutti, provvisoriamente. Ma poi cercherò di dillo che prendi una casa a Roma, dai, prendi una casa a Roma. No, io non ho preso neanche la casa a Strasburgo, a Bruxelles. Però, a dove campi? Però nel territorio mi sono trovato bene, mi sono già ambientato. Però no, scusami, Mario. Mi sono già ambientato. Però ogni volta che viene qui va sempre a casa Pound, sempre a salutare i suoi amici. Un sartino a bottega si fa sempre. E ci sta sempre. Poi devo dire che c'hanno anche gente delle buone buone trattorie. Non però è mica da trascurare questo aspetto. Bei fascistoni, diciamo la verità. Bei fascistoni. Diciamo ragazzi che si fanno rispettare. No, Si fanno rispettare. Però ragazzi puliti. Ma scusi, io non ho capito, ragazzi, dov'è puliti. Che dormi tu a Bruxelles, a Strasburgo? Dove dormi? In albergo, anche là. Anche là in albergo? Sì. Io sempre, anche a Roma, quando ero deputato italiano, temporibus, mi sono sempre trovato bene come ambiente. C'era già un tempo a Ega Romana, era nata, poi non l'avevamo seguita, non era il momento. Adesso vabbè, Salvini ha tracciato il solco e la spada lo difende. Vabbè, allora io dico una cosa: ecco il professore che ha chiamato. Il professor Taormina. Taormina, ti abbraccio, professore. Che vuoi fare? Chiamatemi il professor Taormina, vai, chiamatemelo, che poi si incazza. Chiamatemelo voi, dai, ha chiamato qui subito. Ma Cruciani ormai è diventato un sovietico. Professore Carlo, stanno mandando, arrivando messaggi. Ha chiamato subito il professore Carlo. E gli hai detto scusa che porta sfiga, che tutto quello che tocca. Vabbè, una battuta, non si può fare una battuta. Che cazzo. Beh, molto grave. Ma Borghezio, ma è andato a puttane, a prostituta, dato che la Lega vuole legalizzare la prostituzione? Forse da ragazzo. Beh, non c'ho più l'età, ragazzi. Non c'ho più l'età. No, ma una volta sei andato. Però, sì. Però anche nel paese della signora Chienge, diciamo che abbiamo assaggiato il prodotto locale, che era tutt'altro no, che cattivo. Ma come cattivo. Si fa a dire così? Scusa. Che prodotto? Con tanto rispetto, perché proprio nella regione di cui è originaria la signora Chienge, ci sono le più belle donne congolesi. Beh, sono notoriamente le katanghesi. Ma mica si può dire che sono tutte prostitute, però. No, io non ho detto ma questo. Ma lei dice che scusi, il paese da cui viene la Chienge. Due discorsi diversi. Io ho detto, c'è stato, punto. Sì. Poi a capo, proprio nella zona della signora di cui è originaria la signora Chienge, ci sono però le più belle donne del Congo, però perché sono le katanghesi. E pagavi, diciamo la verità, all'epoca pagavi, dai. Ma è ovvio, Beh, appunto, dunque ma è ovvio. Ero un estraneo, arrivo lì a sera, uno non sa che cazzo fa. Ma com'erano ste katanghesi? C'avevo anche 25 anni. Com'erano ste katanghesi a 25? Molto belle. Molto belle, Lo saranno anche tuttora. Ma che faceva in Congo, Borghezio? Il mio primo lavoro è stato... In Congo, che non lo sai, l'ho raccontato dalla Camera di Commercio Italo Zairese. Io ho lavorato per il governo. Ma erano molto belle. Ai tempi del grande Mobutu. Un uomo... Ma che eccezionale. Un uomo eccezionale, ma è un criminale, un capo che aveva dato identità, ordine, pulizia a questo grande paese. Ma è un criminale, un popolo che ha trovato un capo, un leader. Ma che è un assassino, Mobutu. Ma per la carità di Dio, Mobutu è stato un grande politico, ma è stato un grande condannato statista dalle organizzazioni internazionali. Ma per la carità di Dio, ma è un criminale. Ma per Mobutu, criminali sono quelli che gli facevano gli attentati, che sparavano. Scusa, ma queste donne, ordine. Ma non puoi tollerare Cruciani questa roba. Queste donne, queste donne, com'erano? Che ha dato, che ha inventato, che ma si è intascato un sacco di soldi, un preleghista. un preleghista, perché la dottrina di Mobutu era l'identità. Vabbè, io voglio capire sono radici comuni. Aspetta un attimo, Mario, io voglio capire una cosa. Queste signore erano molto molto belle, eh? Notoriamente le catanghesi sono alte e belle, slanciate, sono signorili come portamento. Ma quante te ne sei fatte là? Sono quante le più belle donne dell'Africa, dicono tutti quante gli esperti. Quante te ne sei fatte lì? Ma che mi ricordo neanche più. Comunque l'esperienza più è stata ottima. L'esperienza è stata ottima. E devo dire che invece la signora Chienge non appartiene a questa specie, no, diciamo, più bella. Non è né alta né slanciata né signorina né veramente bella. Ma diciamo, l'elogio di Mobutu. Ma Mobutu, diciamo di più, che dicevi, diciamo di più. Ha inventato una dottrina politica che bisognerebbe insegnare nelle scuole. Non ricorda nessuno. Che stavi dicendo prima, scusa? Diciamo qualcosa in più? Non ho capito su che cosa? Sulla vicenda da Chieng là, le belle ragazze con no, sulla Chieng secondo me bisognerebbe scrivere un libro, perché è stata un'esperienza incredibile, sì. Cioè questo partito che ha inventato un personaggio del genere, bisogna togliersi tanto di cappello, perché un regalo così alla Lega non ce l'ha mai fatto nessuno. Vabbè, ho capito, però bisognerebbe dire grazie PD, grazie Renzi, perché quando c'era lei al sì. Ministero noi cucavamo, cioè, un sacco il nostro 6% è frutto anche della Chieng, dici adesso tu. Che la mandano al Parlamento Europeo, alle prossime elezioni prenderemo molti più voti. È una garanzia. Tutte le volte che parla sono voti per la Lega. Quindi, però scusa, grazie Chienge. Ce ne fossero di Chienge. Però scusami, una leghista di Castelfranco Veneto ha detto che è un cesso. Avete votato un cesso? No, intanto non è un cesso, perché pur non essendo una catanghese di quelle più belle, diciamo, si difende, è un tipino. Beh, l'ha detto una leghista, l'ha detto una tua collega leghista di Castelfranco Veneto, che va cacciata immediatamente, ha detto abbiamo eletto un cesso al Parlamento Europeo. Sono espressioni uscite dal senno, che qualche volta possono uscire da chiunque, anche da me, ma chiunque. Diciamo comunque tagliate. Diciamo la verità, caro Mario, torni a Strasburgo più cattivo di prima, diciamolo. Tornerò a Strasburgo, vabbè, avrò il coltello fra i denti, perché adesso abbiamo un grande gruppo, perché abbiamo la nostra guida, la figlia di Jean-Marie, quindi dalle buone scuole nascono i personaggi giusti, gente con le idee chiare su immigrazione, euro, sovranità monetaria. A proposito di immigrazione, abbiamo trovato una Giovanna d'Arco. A proposito di immigrazione, cioè, tu vuol dire quasi quasi diventi francese? Ma noi piemontesi diciamo che ci sentiamo italiani a metà. A casa di mia nonna si parlava francese. Sì, mia sì. nonna, quando arrivavamo noi da Torino, tenete conto che noi siamo originari di Rivoli, 13 chilometri, diceva Rivoli italiano. Si diceva quello, Rivoli italiano. Scusa, con l'immigrazione, che vogliamo fare? Per esempio, con i barconi, tu che faresti? Ma con quelli che con molta gentilezza il TG chiama scafisti, che sono delinquenti figli di puttana della peggior specie, peggiori dei trafficanti di droga, bisogna sparargli in testa, non c'è mica sparare scafisti. Come? Sparare in testa agli scafisti, sparare in testa. Ho capito, agli scafisti, sparare in testa agli scafisti, ammazzarli. Ma si rischia di uccidere anche però i migranti, i poveri migranti. Con grande cura. Sparare in testa senza rischiare di colpire gli altri, gli si individua e poi gli si spara in faccia. Ma perché questa non è gente degna, senza processi, esecuzioni sommarie. No, secondo le norme contro la pirateria internazionale. Quindi se questi qua guidano una barca, poi la barca rischia di affondare, caro Mario. No, dopo, quando sono messi in sicurezza. Ho capito, lì non è un assalto, allora, è un'esecuzione. Tu dici bisogna ammazzarli sul posto, farli fuori sul posto. Possibilmente prima che partano, così si evita anche di avere spese con quelli che arrivano. No, ma come spese? Ma parliamo di esseri umani, Borghezio, però. Certo, ma gli esseri umani che vanno curati. Ma come certo sono esseri umani. E l'altro che ride, pazzesco. Basta curarli alla partenza. Anziché curarli all'arrivo, curiamoli alla partenza. Se tu dici. Spendiamo anche qualche soldo. Soldino. Tu dici non troppi. Il nostro programma è chiaro. I servizi segreti devono andare lì a far fuori i trafficanti. Questo tu dici. Il programma ma è quando chiaro. Abbiamo fatto un culo così, non sono partiti. Quando è successo? Basta continuare su questa linea. Ma quando è successo? Linea? Cosa vuol dire? Che quale linea? Di bloccare la partenza con metodi naturalmente molto energici. Beh, no, certo, evitando, evitando che la nave parta al capitano della nave, sapete, lei però, magari delicato di salute, eccetera, eccetera. Può capitare un piccolo incidentino, non parte. La seconda volta si fa furbo. Lei proprio, cioè, è bastato dire la parola Le Pen, lei subito si è riacceso. Beh, certo, è una garanzia, diciamola chiara, diciamola chiara. Certo, il padre storia, dovrebbe il padre... una grande storia, una grande famiglia, tutte... E poi c'è l'altra nipotina, sì, che ancora, ancora non abbiamo ancora valorizzato, la deputata bionda, quella eletta in Costa Azzurra. Ah, sì, beh, un altro bel personaggio, tutta la famiglia, diciamo, però ha piazzato molto Pen, bionda, molto nordica, diciamo che rappresenta il meglio della nostra etnia. Non si può dire l'altra parola, quella che comincia per R e finisce palazza, quella non si può dire perché è politicamente scorretta. Non lo diciamo, non lo diciamo. Noi quella parola non la diciamo, detto, non si può dire, noi detto, non lo diciamo. E poi c'è la legge Mancino che ce la mette nel culo, non per nulla noi la vogliamo abrogare. Però scusami, a Berlusconi devi firmare anche la legge Mancino, quella è la più importante di tutte. Scusami Mario, però io non dico, non ti dimenticare, firma la Fornero, firma l'Ada, e la legge Mancino è la più importante. Ci fanno un culo tutte le volte che parliamo di immigrazione con sto cazzo di legge, ce lo mettono in del culo con la legge Mancino. Ma... abrogazione della legge Mancino. Però scusa un attimo, tu, perché tu sei a Milano, tu dici che Marine Le Pen, ma scusa, Marine Le Pen è su queste, tu dici cose che caute e moderate che dobbiamo trovare l'intesa. Però scusa, Marine Le Pen tu dici che è l'emblema della purezza della razza, diciamo, no? Siamo Marine Le Pen bionda, della purezza dell'identità europea, cioè, come prototipo di donna, tu dici, specialmente la nipotina, specialmente la nipotina che è bionda, diciamo che ricorda l'iconografia tradizionale della migliore Europa, della migliore Europa, diciamo, l'Europa tedesca nazista, ma era l'elogio della razza, scusami, ariana, bionda, l'iconografia che parte anche da Roma, no? Dall'antichità, dalla Grecia, razzismo, poi è arrivato al razzismo, se questa è arrivato roba un signore... non si deve arrivare, bisogna fermarsi un milionesimo di millimetro prima, però sì, ho capito, ma però millimetro, ha detto millimetro, l'unesimo di millimetro. Scusa, ma diciamo la verità, la società multirazziale ti fa schifo, dillo la chiaramente. La società multirazziale è una grande puttanata. Ti fa schifo, è un orrore. Non è che fa schifo. Ti fa schifo. Diciamo, diamo un giudizio cautamente negativo. Cautamente negativo. Mi fa schifo. Bisogna bloccare perché ha dato dei pessimi risultati. Perché ci dobbiamo infognare in quel sistema lì? Ma guardi l'America, quando è cresciuta. Appunto. C'è Obama che... Appunto. Basta guardare l'infanzia. Vabbè. Guardi l'America com'è. È un paese appunto grande proprio perché ha avuto l'immigrazione. È un paese insicuro proprio perché ha avuto l'immigrazione. E la gente di notte deve girare come cominciamo a girare Torino, Milano. Però diciamo la verità, tu sogni un paese tutto bianco. Andate ai Sette Cammini a tu parlare sogni, di società multirazziale. Tu sogni cosa un paese. Dove? Ma lo dico subito. Dove c'è il più grande... Ce l'hai già raccontato. Io voglio dire una cosa. Tu, una società... Libertà sogni, per Sette Cammini. Tu sogni una società tutta bianca. Io sogno un mondo tutto bianco nel quale è circondato, nel quale le identità vengono rispettate. Ci sono, cioè, se accanto a casa tua c'è un ci sono degli studenti di colore che vogliono venire al Politecnico di Torino come in passato, anche alla scuola di guerra, della scuola di guerra militare, una volta vogliono venire a fare i corsi e poi immediatamente finito il corso tornare a casa loro e non rompere i coglioni, va benissimo. Ma come? Ma se lavorano qui portano la loro intelligenza qui, sono fior di geni. Caro Mario, ti devo salutare, se no mi ammazzano. L'accoglienza, il rispetto, tutto benissimo. L'invasione no, perché l'invasione altera la nostra identità. Padroni a casa propria, e noi non dobbiamo andare a comprare i coglioni a casa loro, questo è evidente. Questo è evidente. Bisogna evitare. Se a favore anche colonia... se porteremmo, anche se andando a casa loro, non portando le armi, eccetera, eccetera, come fanno i governi democratici. Perché la società africana. Quelli antirazzisti che esportano le società armi. Società africana là. È inferiore? Società africana è inferiore? È diversa. È diversa. Però inferiore. Non c'è una scala di valore, c'è una scala di diversità. Diversità. Sotto tanti aspetti, la capacità di vivere a contatto con la natura naive delle popolazioni africane è molto migliore della nostra, che abbiamo devastato la nostra natura. Questo lo capisce chiunque, lo capisce anche Mario, ti abbraccio, ciao. Grazie. Ciao. Saluti. Salvini, mi raccomando. Saluti da Roma e quindi saluti romani. Mi raccomando. Ma come saluti romani? Quindi saluti romani. Ma si può fare? Saluti da Roma e quindi fai il saluto romano, se hai coraggio. Da Roma sono romano. Fai il saluto romano, se hai coraggio. Non facciamo il saluto romano, ma lo diciamo. Se un saluto da Roma, è un saluto romano. Ma non si può dire. Cari elettori di Roma, salutiamo romanamente gli elettori di Roma. Facendo così con la mano, come si fa? Un saluto. Con mano ferma, amichevole. Come nelle statue davanti al Capitolio, mica si incazza. Ma fanno il segno del saluto romano. Se lo trova davanti all'ufficio, è un motivo, ci sarà. Ciao. Saluti da Roma e quindi saluti romani. Com'è uscito dallo studio Marione? Con la scorta, com'era arrivato? Quando il giorno scivola via, si svegliano per me. Quando tutto sembra poesia. Pronto? Sì? E il conduttore? Sì. Beh sì, certo che il conduttore. Sai che mi hanno dato il numero di questo tizio? Ma mi hai detto che l'avevi incontrato a Torino. Sì, avevo perso il numero, qualcuno mi ha mandato una mail con il numero di questo tizio. Danilo Massa Carrara, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dimmi. Volevo dire, intanto, per ora la democrazia la vedo solo nel Movimento 5 Stelle. La democrazia nel Movimento 5 Stelle mi sa che l'ha vista in cartolina lei. No, vedo che votano sul web, vedo che puntano sul web. La democrazia non sta sul web, basta dire cazzate. Vabbè, la democrazia non sta sul web, basta. Nel cane l'Italicum, forse la democrazia nel Ma che c'entra l'Italicum adesso? Le leggi elettorali sono degli strumenti, costituzionali, la costituzionale. Un attimo, la Costituzione è il fondamento della democrazia. Sì, la Costituzione si può anche cambiare però, ci sono anche delle procedure per cambiarla, ha capito? Cambia, prima si cambia, non si fanno le leggi costituzionali prima di anticostituzionali. Vabbè, senta, il discorso è molto lungo. In ogni caso, certamente non è su web la democrazia, su questo non c'è dubbio. La democrazia e web non c'entrano niente. Il web è uno strumento. Zanza. Che le odio le zanzare. Ci massacrano. C'è ancora sto Marco da Catania? Non ho capito, non c'è. Fabio da Roma, Fabio. Buonasera, Cruciani. Dimmi. E niente, ho appena finito di fare la doccia, questo per intenderci. Vabbè, ha finito di fare la doccia, allora? No, senti, l'ho chiamata per il discorso di quella... Sì, ma lei è con l'auricolare in viva voce, cosa? No, forse di là mia moglie c'è la radio accesa. Non lo so, comunque poi... Chiudi la radio. Pronto? Chiude la radio, sì, vai. Allora, no, io volevo ricollegarmi alla doccia per la questione della libera scelta, no? Cioè? Ogni persona è libera di scegliere quello che vuole fare. E mi ricollego a questo per il discorso di quella signora cattolica che diceva che bisognava proibire aborto, divorzio breve, tutte queste cose qui. Dunque? Io anni fa sono stato intervistato da Radio 24 con Don Damani per il referendum. Sì, però vada un po' più veloce, Fabio, con la voce un po' più alta, altrimenti ci facciamo due palle così, dai. Niente, io volevo dire solo questo. Che se uno è libero di scegliere di divorziare o non divorziare, non dipende dal fatto che sia cattolico o non cattolico, non possono imporre per legge una religione. Se che vuol dire non possono imporre per legge una religione? Nessuno impone per legge una religione se non negli alcuni stati. Le regole. Ho capito, ma stiamo parlando del divorzio breve, di questo vuole parlare lei? No, di questo vi dico in generale. Io sono andato in Spagna per fare la fecondazione assistita. E questo, infatti, grazie alle leggi che hanno fatto questi per il mondo cattolico. Sì. Allora, perché io, cattolico o non cattolico, devo andare all'estero a spendere milioni? Bravo. Quando potevo fare la stessa cosa in Italia per fare una legge anticostituzionale che ho combattuto e abbiamo vinto. E questo è quello che volevo dire. Va bene, grazie. Luca da Torino, Luca. Ho telefonato perché mi sono veramente annoiato di sentire le telefonate contro i Rom. Cioè, noi siamo il popolo più cretino della terra, ci facciamo fregare i soldi da tutti. Gli amici di Borghezio in giunta regionale del Piemonte stanno patteggiando delle pene per i rimborsi chilometrici. Abbiamo due grandi multinazionali del farmaco che fanno cartello per far pagare al nostro servizio sanitario nazionale altro che soldi di un tubo di rame rubato. Allora, visto che siamo un popolo francamente di poveretti, abbiamo trovato qualcuno che è più sfigato di noi. noi, i rom, bene, tutti sotto a battere i rom, tutti ci fregano tutto, non vi piace che rubino, non vi piace che faccia l'elemosina, non vi piace che vi lavino i vetri, bene, assumeteli. Io lo so che i rom che lavorano sono tanti, non posso mica dire di essere rom, perché se no li cacciano via. A te, quando sei entrato in Radio 24, mica ti hanno detto sei romano lo lavori, ti hanno detto, boh, Cruciani lo prendiamo. Io so di gente che deve nascondere chi è vero, per lavorare, e lavorano più che onestamente. Poi ci sono tutti gli altri, però noi per questi li teniamo nelle baraccopoli, perché sono pagati dal comune. Dopodiché, sì, però, ma ha ragione, c'è di più. Ogni quelli 300, che vivono nelle baracche, ha ragione. Ogni 300 telefonate che noi che voi prendete su quanto ci rubano politici, imprenditori, aziende, multinazionali, una sui rom, così pareggiamo. Sì, okay, io non, ma nessuno ha mai sostenuto, Luca, né io né altri, che siano il principale problema dell'Italia. Tu ogni volta il principale problema dell'Italia. No, però gli dai benzina, gli dai benzina. Ma che dici? Ma non dire puttanate. Come no, gli dai io non ho mai sostenuto qui. Questo. Restiamo ai fatti. Al di là del fatto ha ragione che l'ascoltatore che ti ha ricordato una cosa vera, cioè molti di questi devono, che vogliono lavorare, onestamente, sì, nascondono ad esempio al datore di lavoro che vivono nelle baraccopoli. Ma questo è da sì, tutto sono da costretti a farlo, perché altrimenti nessuno li assumerebbe, capito? È tutto da dimostrare questa roba qua. A tutto da dimostrare un corno. Tu assumeresti, è tutto da ad esempio, dimostrare. Visto che hai decine di persone in casa tua che fanno pulizie, cuochi, eccetera. Ma le tue mai? Maestranze, tu assume uno di questi qua, se lui ti dicesse guarda dottore, sono vivo Cluciano, sono a ma questi non lo fanno, vivo in un questi campo lavori rom, qui non li tu fanno. Lo assumeresti, lo assumeresti. Non li ma non è vero, molti ma lavorano anche mai? Nelle fabbriche invece, non è vero, e devono nascondere ma dove quando? Vivono. Ma non è vero, dai, su, comunque Luca, chi gliel'ha detto a lei? Chi gliel'ha detto a lei che devono nascondere? Ma io conosco delle persone. Te le posso portare in radio se vuoi. Che cosa sono? Rom, di etnia rom, e devono nascondere il fatto di essere di etnia rom, perché altrimenti non le assumerebbero. Li assumono. Certo. Beh, portameli in radio, così ci parlo. Portameli in radio. Ma tutto ciò, no? Vuol dire, tutto questo non, cioè non impedisce di parlare di persone che rubano. Se no, ci sono gruppi di rom, lui ti dice, che rubano il rame, punto. Ma non ho detto che è la stessa cosa che rubare, che inquinare, o che rubare o prendere mazzette. Nessuno ha mai detto una cosa di questo tipo, Luca. Nessuno, o no? Non ci preoccupiamo più che ci chiudano gli ospedali, perché la nostra sanità pubblica è in deficit, perché tutti rubano qualcosa quando possono. Ok? Chiudono gli ospedali, i nostri vecchi vanno 80 km in più per farsi la dialisi perché hanno chiuso il punto vicino e lei casa. Dice noi parliamo dei rom, vabbè, non c'entra niente, però cioè, sono due discorsi che non esistono, vabbè, comunque ronda, ronda, ronda, se va bene ronda. È una cosa incredibile, veramente anche direi indegna, sì. Ma hai letto quello che ha scritto il professore? No, ho visto adesso un tweet dell'esercito di Parenza. No, ma tu non hai letto quello perché non segui il professore, tu. Sì, no, non lo seguo. Questa zanzara sta diventando una trasmissione violenta, volgare e corruttrice del costume sociale, esaltando il partito Renzusconi e i gay. No, ma tu perché ho letto la risposta, l'esercito bellissima di Parenzo, sto fantomatico, ma non me ne frega che non niente, sono ma io, dice non si arrabbi. Hanno risposto subito a questi sì, qua. Sì, ma caro Dormina, questa esercito zanzara sta diventando una trasmissione violenta, volgare e corruttrice del costume sociale, esaltando il partito Renzusconi e i gay. Una cosa pazzesca, dai. E che cos'è? È che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Saremo noi questi. No, no. Sì, lo so. Roberto da Roma, 800240024. Chiamalo se hai coraggio, affrontalo, digli quello. Cruciani e Parenzo, siete dei maledetti fascisti che parlate del prossimo senza contraddittorio, dicendo cose orribili, vi denunzio, no, io basta. Ma chiamatelo un attimo, scusate, chiamatelo un secondo. Ma perché chiamate. Cosa gli hai detto? Vedi, ma sei ho tu detto che fai sempre casino. Ma ho fatto una battuta! Ma fai sempre casino, sempre, sempre, ogni giorno fai casino. Chiedigli scusa adesso. Ma professore, professore, dai. Ma poi invece sta foto. Ah, è vero? È una cosa pazzesca. Professore? Non posso, sono in televisione. Ma che è successo? Sono Cruciani. Lo so, ma sono in televisione. Ma che è successo? Dimmi, scusami. Niente, niente, niente. Ma Carlo, ma stiamo scherzando. Vabbè, d'accordo. Ma è uno scherzo, su. Ma è una battuta, che questa cosa di Grillo era una battuta, professore. Ok, d'accordo, sono in televisione. Ma dove stai? In televisione dove? Sì, a Tele Lombardia. A Tele Lombardia, che cazzo stai a fare a Tele Lombardia? Ciao, Carlo, ciao. Come? E che tentativo? Te Lombardia, sempre. Andava sempre a Te Lombardia, sempre. Roberto da Roma, professore Carlo Dormino, domani facciamo una grande battaglia con il professore. Sì, Roberto, dimmi. Ma allora, tribunale, Gianni, buonasera. Devo dire che io seguo la sua tradizione da tanto tempo e la ritengo una trasmissione assolutamente originale. Sì. Non so se sono con buona compagnia, ma mi viene sempre più voglia di non sentirla, perché se lei invita, e non so se è per una questione di audience, il tema mi preoccuperebbe molto, ancora personaggi come Borghezio. Ma io invito razzisti ogni giorno, ogni giorno invito razzisti, fascisti, figli di puttana, pezzi di merda, esaltati, estremisti. Che intervenga qualche magistrato. Ma che magistrato? Ma quale apologia di reato? Ma non ci rompessero i coglioni. In un paese come l'Italia è possibile sentire persone che inneggiano al razzismo? Ce ne sembra una cosa normale, educativa. Ma non educativa, non me ne frega niente. Primo, secondo, che sia normale. Io penso che lei svolga un ruolo anche educativo, diciamo, sociale educativo. E politico in senso lato, no? E mi augurerei che la proprietà della radio prima o poi le dia qualcosa. Sì, ma non ho capito, che cos'è che le dà fastidio? Non ho capito, ma è mica la prima volta. Ma Borghezio che inneggia al razzismo, e devo ma dire non che è la prima volta. Una volta svolgeva un ruolo, diciamo, un po' di contenimento di queste sue decisioni. Mi sembra che ultimamente si diverte anche lui a sentire. Ma che dovevo fare? Ma sei parlamentare europeo. Ma che dovevo fare? Gli ho ricordato di quel che ha fatto questo elogio maledetto di questa persona, di questo criminale. Ma non qual era è? Su Mobutu questo. Mobutu che era ma un non ha parlato. Quell'elogio di Mobutu era una roba da criminale. Ma non parlava di Mobutu, terribile. Dai. Ma no, questo ascoltatore l'ha incazzato per altro, non per Mobutu, giusto Roberto? Beh, anche su tutto il resto. Ma che ne sa di Mobutu? Roberto, perché era arrabbiato lei? Eccetera, lo può fare, ma che venga in una radio che io presumo sia una radio progressista e democratica, che a dire delle cose. Progressista e democratica, un cazzo, scusi, progressista. Ah, vabbè, io ritengo che dovrebbe essere, visto che è una progressista, radio no, democratica sì, perché facciamo parlare tutti, anche lei. Io lo trovo scandaloso. Scandaloso. Vabbè, ma faccia una denuncia pure lei, cioè così oggi arriviamo a tutte le denunze possibili immaginabili. Vabbè. Ciao amico. Vabbè, contento lei. Ciao. Contento lei. Ti bacio. Ti posso dare un bacio? Un bacino. Un bacino piccolo, dai, un bacino. Abbiamo con noi uno straordinario personaggio. Uno straordinario personaggio, Parenzo. Autrice di Tremo. In via del campo nascono i fiori, edito da Imprimatur, che noi conosciamo bene, come dire, noi conosciamo bene. Non farmi parlare ora. Perché una guarda. Signora, una trans, 72enne. Anche qui colpa tua, anche qui. Sì, colpa sì, questo tua, sì, questo sì, qui, questo, no, è vero, questo è vero, guarda, questo è vero. Una trans, 72enne, che ancora fa la prostituta con grande orgoglio, amici miei. Capirai. Rossella Bianchi, buonasera. Buonasera. Come sta, signora Bianchi? Non c'è niente di male. Marlene Dietrich ha fatto Spogliarelli fino a 80, Mai West fino a 90. Vabbè. Quindi a 70 sono ancora una più bella io. Beh, sì, siamo top. Allora, signora Bianchi, ma lei ancora a 72 anni riceve clienti? Ma io sono degli aficionados. Diciamo che sono una trans con molti amanti, non mi prostituisco, amanti di decennali, ventennali, trentennali. Vabbè, pagheranno questi qua o no? Chiaro. Pagheranno, cioè lei quanto guadagna al mese, signora Bianchi, tanto per capire? Beh, questo non entriamo in questi particolari. No, tanto qui c'è la finanza che ascolta. Per vivere. Per campare. Ma in per tutti campare, questi anni quanti soldi ha messo da parte? Cioè, così indirizziamo bene il fisco. Appunto. Vabbè, ma noi no, poi la proteggiamo. Non ho messo niente da parte. Perché io amo vivere da ricca e morire da povera. Cioè, spende tutto. È lei. Una mia filosofia. Questo non è male come filosofia. Forte. Lei spende tutto quello che guadagna, diciamo. Spendo quello che guadagno. Beh, questo viaggi, è buono, vestiti. Sì. Ma io mi domando, le persone bene. Che vengono ancora da lei a 72 anni, quante clienti ha a settimana, per esempio? 10-15. Ma come? No, per carità, lei, io ho grande rispetto di tutti, il presupposto è questo. Però uno magari potrebbe scegliere persone un po' più giovani, ecco, non voglio dire. Ma guardi, nel nostro caso conta l'esperienza e la professionalità, e naturalmente anche l'aspetto. Magari lei non mi conosce, io non ho l'aspetto di una 72enne. No, per carità, certo. Non metto bocca, ma i suoi clienti che anni hanno? Cioè, quanti anni hanno? La più. Ma, dai 30 pure 30 70. Anni. Poi, amanti proprio dell'old, amanti dell'old, sì, il complesso della nonna. come si dice? Col complesso della nonna. Col complesso della nonna. Ma ci sono persone proprio fissate, fissate da questo punto di vista, cioè di andare con le persone magari over 70 come lei, cioè trovano proprio, basta, si eccitano, no? O no? Beh, se vengono e pagano vuol dire che gli piacciono. Beh, assolutamente. No, mi stupisce il fatto che lei ancora al 72 anni abbia ancora voglia di fare questo mestiere. Questo è la prima trans italiana, certo, sostanzialmente. Certo, no? Certo, io ho ancora voglia di fare questo mestiere perché ho ancora voglia di fare sesso, ho ancora voglia di vivere, sì, ho ancora voglia di divertirmi. Ecco, ma ci sono persone che le chiedono cose molto strane, ci sono ancora maniaci, perversi. Ma mi avete chiamato per questo? Io pensavo che mi aveste chiamato per spiegare il contenuto del libro, che è un po' più serio e non sì, parla di clienti né di degli attori. Vabbè, però, sessuali, però cara signora Bianchi, qui parliamo anche di queste cose qui, che sono abbastanza, come dire... Magari parliamone anche. No, però voglio dire... parliamo esclusivamente di quello. No, signora Bianchi, però voglio dire una cosa, ma lei innanzitutto è a favore della legalizzazione della prostituzione, immagino, spero, o no? Ma sa, non mi riguarda più, ormai. Non ti... ricevo qualcuno in casa, voglio dire, non è che mi riguardi cosa succede, che mi metteranno in regola a 72 anni forse. Ma che ne sa, magari posso le chiedono le tasse tutte insieme. Riguarderà quelli più giovani, la generazione. Vabbè, ho capito, ma lei si occupi anche due generazioni si occupi dopo di me. Si occupi anche di quelle che magari no. Sì, magari me ne posso occupare, non però... Sia lungimirante, sia ecco, lungimirante, guardi avanti, guardi nel lungo ma periodo. Ma io mi occupo di tante cose per... Comunque, diciamo, la prostituzione non è nel suo caso la prostituzione non è schiavitù, diciamo. No, non è schiavitù. Ma è stato, è un piacere. È un piacere. Vedi, Parenzo, che alla fine bisogna... No, ma in questo caso la signora Rossella è una libera scelta, giusto, una libera scelta. Non lo è stata inizialmente. Beh, certo, quello nessuno decide. Non lo è stata a 20 anni, però dopo sì, l'è diventata e accettata e non subita, accettata e condivisa. Ma quelli che dicono invece no, pensano di poter far sparire la prostituzione, no? Cioè, ma nessuno. Come si può rispondere? Impossibile. Impossibile. Impossibile. L'importante è che non ci sia sfruttamento, scusami. Adesso il caso della signora Bianchi che sceglie di fare la trans da 72enne e ha scelto di farlo, va benissimo. Io mi sono arrabbiato l'altro giorno. Non conosco nessuna trans sfruttata, abbia pazienza. Questo è un problema che riguarda soprattutto le donne, le straniere, probabilmente in molti casi. Però io non conosco trans sfruttate e schiavizzate. Beh, lei adesso ha letto da qualche parte che c'è un referendum sull'abolizione della... cioè sulla legge Merlin, sul ritorno alle case chiuse. Non sull'abolizione, sulla... No, abolizione no, perché... Regolarizzazione. Sì, sulla regolarizzazione della prostituzione, eccetera, promosso dalla Lega. Forse Berlusconi può firmare questa cosa. Che dice lei? Che lo faccia. Che lo faccia, Berlusconi. Glielo ho detto, il problema mi riguarda molto, molto, molto lateralmente. Vabbè, perché però lei non può fare quella che se ne frega dopo. Non dico che me ne frega, però magari lo chieda a qualche trans più giovane e avrà i suoi problemi e le sue. Ma lei si è mai innamorata in tutti questi anni? Certo. Sì, ma anche di suoi clienti? No. No, mai? No. Cioè, ha avuto storie durature? Sì, io ho una storia che dura da 23 anni. Ah, da 23 anni, da 23 anni. Non è geloso il compagno, diciamo, il marito, insomma, il compagno? È assuefatto. Mi ha conosciuto così, mi ha accettata così. È assuefatto. Vabbè, cara signora, io la saluto, passi una buona serata. È un libro straordinario, ho letto alcuni passaggi. Avrei letto sono la copertina. Sono contenta di averle date molte delucidazioni sul mio libro, comunque la ringrazio. Un abbraccio. Arrivederci. Un abbraccio forte. Arrivederci. Riccardo da Roma, buonasera. Salve, pronto? Sì, buonasera. Allora, io volevo dire due cose rapidissime, no? Vabbè, la prima appunto sulla trasmissione. Ma tu sei Riccardo? Questo è il solito Riccardo. Sì, è Riccardo. Ha telefonato Riccardo da Roma. Occhio o no? Pagliaccio, adesso mi fai parlare un attimo. Stai eccolo qua. Hai detto delle cazzate pubbliche. Eccolo il solito Riccardo da Roma. Il quadretto dei radical chic. Ipocriti, buonisti, cattocomunisti di merda che rovinano la nazione. Quello da Torino tra l'altro, nota città de merda piena, proprio se guarda, peggio di Parigi, pare, no? comunque a telefono parla quello che ha girato il mondo, volevo dire gli zingarelli poverini, queste persone, Riccardo, assumeteli, che allora a parte sta cosa, assumeteli, no, cioè come capire, ma chi deve assumere, lo Stato, cioè ma vogliamo regalare i soldi pure a questi? E poi in ogni caso, voi avete mai provato a far lavorare uno zingaro, quello, oh, c'è gente che deve nascondere la propria identità, ma che cazzo di, questa è una cazzata più grossa di quella di Palenzo che gli mandavano la visita fiscale, c'è una cazzata più grossa, non la poteva dire che questi nascondono, questi non ci provano proprio a lavorare, diciamo le cose come stanno, se tu prendi uno di questi e gli dici io ti assumo a tempo indeterminato e ti do 800, 1000 euro al mese, quello sai che fa, prende il giorno dopo sarà ammalato e lo trovi di nuovo a rubare o a chiedere l'elemosina, è un dato di fatto, non ci prendiamo per il culo, basta con questa ipocrisia, basta! Capito, Paresso? Non vogliono lavorare. Ecco il sociologo Riccardo da Roma, il sociologo ha chiamato. Compri pata negra, compri formaggi pata negra non lo compro. Posteggi a 100 euro, 200 euro a botta, fai la spesa a 300 euro, vini pregiati. Porta a casa tua i zingari, te l'ho già detto un'altra volta, te l'ho già detto un'altra volta, invitali. Ma ci vedi quanto ti anima bella. Ecco il sociologo. Ecco il sociologo, Sigmund Bauman, eccolo qui. Mamma mia. Invitali. Ho detto semplicemente che quell'ascoltatore ha ragione perché ha ricordato fatti veri, cioè spesso alcuni di questi sono costretti a nascondere l'identità. Non è che telefona qua il poveretto il Riccardo da Roma. E hai dato lavoro a 20 persone e hai scoperto che poi erano Roma? Ma stupida, sei stato in silenzio per settimane e non sentivamo la tua mancanza. In silenzio per settimane sei stato. Ritorna nella capanna. Sei proprio il peggio, il peggio. Oh, ritorna nella capanna, ritorna nella capanna. Del 68 che ha sventrato questo paese. Tu vai bene per fare leccaculo del PD, anzi l'Emilio Fede del PD, non leccaculo. Ritorna nella tua caverna, ritorna nella tua caverna, su, ritorna nella caverna, avanti, ritorna nella caverna, su. Io almeno ce l'ho la caverna. Uomo che dell'età della pietra, uomo dell'età della pietra, torna nella caverna. Sì, ma scusa, ma che cosa ha detto di strano? Ha detto che secondo lui gli zingari è una persona di Roma... volgare, è volgare. Vabbè, ma dice quello che pensa a modo ma suo. Ma pare che uno dice quello che pensa anch'io. Ok, scusami. Allora lo dico come lo dici tu. Volgare. Il dottor Parenzo, brava persona, come dice la Terrafiario, brava persona. Il dottor Parenzo, non mi trovo d'accordo col dottor Parenzo sul fatto che forse gli zingari possono avere una collocazione nella società. Perché secondo me i zingarelli poverini, se li metti a fare l'elemosina, solo quello vogliono fare. E rubare. Ma che lavoro fai? Chi ruba? Ma che cosa fai tu? Oltre ad alimentare il razzismo, cosa fai? È il partito dei giustizialisti, è il partito di quelli che dicono tutti in galera, le sentenze si rispettano, le sentenze come deve serpare eterno le sentenze, no? Le sentenze si rispettano e ma questi rubano, corti in flagranza. Fammi capire, Riccardo, i politici ladri li vuoi fuori dai coglioni e gli zingari li vuoi in galera, fammi capire la filosofia di Riccardo, i politici che rubino, tutti fuori, i zingari in galera, fammi capire la filosofia, mi capisci se parlo come te, Riccardo da Roma che vive nella spelonca, me lo capisci? Ragazzi, devo chiudere, Riccardo, hai chiamato troppo tardi, devo chiudere, a domani, ciao. Vabbè, d'abbraccio, ciao. Dottor Cruciani, lei ha dichiarato che fa la doccia, che fare la doccia troppo spesso fa male, no? Allora io, dottor Cruciani, l'ho presa alla lettera, l'ultima doccia l'ho fatta col governo Monti. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. È finito tutto con Ascureggia. Radio 24. La passione si sente.